Il pomeriggio a casa si tenne il funerale della signora di mezza età. Remo vietò a mio fratello Andrea di uscire e partecipare alla funzione, così fui io a sostituirlo. Andrea aveva confessato alla nonna l'intenzione di sposare Anna e la nonna tentava di dissuaderlo. Il corteo funebre arrivò al cancello del giardino seguito da molte persone, tra cui Marco, il tecnico TV. Marco era un lontano parente della signora, ma non perdeva occasione per rivedere mia sorella. Era molto che non vedevo Marco e la sua visita mi fu assai gradita. Nel frattempo il feretro aveva raggiunto la sua residenza. Remo, aiutato da Vittorione e per l'occasione anche da Insino, calavano la cassa nella fossa opportunatamente preparata in anticipo. Nel ricoprire lo scavo subentraio anch'io, che a fianco di Vittorione mi dava un gran da fare con la vanga. Remo si attardava con i parenti a parlare sommessamente, alcuni gli stringevano la mano, altri, freschi della notizia di Andrea e Anna, si allontanavano visibilmente contrariati. Marco stava parlando con Andrea. Voleva confortarlo e rassicurarlo per il futuro. Nel frattempo cercava continuamente lo sguardo di Graziella, che veniva sostituita brillantemente dall'altra sorella. Finito di riassettare il nuovo appartamento, volevo aggiungere il nome della nuova arrivata, Laudomia, sul mio quadernetto registro, ma fui assalito alle spalle da Vittorione. Vittorione era intenzionato a fare una vera e propria disquisizione sull'ipocrisia della gente. Rabbia ed ingenuità erano mischiate nelle sentenze che sputava da quella bocca composta ormai da pochi denti malfermi. Cominciò a sentenziare come le lacrime dei parenti scomparissero velocemente una volta oltrepassato il cancello. Mi invitava a non giudicare, a sorvolare sugli scherzi dei ragazzi, a considerarmi fortunato di abitare in quello strano luogo. Poi una pausa. Le parole di Vittorione si fecero più quiete, gli occhi cominciarono a velarsi di impercettibili lacrime e fece cenno ad una strana divisione del genere umano composto da fortunati e sfortunati. Parlava a ruota libera, senza che osassi interrompere a tratto com'ero da quell'oscuro discorso che stava per fare. In quella divisione lui si poneva nel mezzo. Si riteneva fortunato di essere uscito da un campo di sterminio e allo stesso tempo sfortunato perché non vi era morto. Aveva un passato tremendo. Dopo la perdita di entrambi i genitori, era stato catapultato in guerra, dove fatto prigioniero fu deportato in Germania. La sua tenacia e la forte tempra riuscirono a farlo sopravvivere, ma ad un prezzo altissimo, che lo condannava ad un'esistenza piena di rimorsi ed angosce. Mi raccontava che accettò di collaborare in quel campo per ottenere una migliore condizione di prigionia. Doveva fare l'infermiere, costretto a gettare nelle fiamme le povere carcasse dei suoi stessi compagni. Una volta liberato, sopravvissuto con pochi altri e tornato al paese, non trovò di meglio che continuare in qualche modo quello per cui si riteneva dannato. Doveva espiare la propria colpa, perché affermava: nella morte non c'è dignità, ma questo luogo può essere il tuo vero maestro. Gelato completamente da quel racconto, coglievo alcuni momenti di vera tristezza negli occhi di Vittorione. Poi mi invitò a seguirlo nell'ossario comune del nostro giardino, perché dovevo approfittare ed apprendere tutto da quel luogo ed una volta acquisite tutte le possibili lezioni, lasciarlo al più presto. L'ossario comune era l'unico luogo del giardino che mio padre mi vietava di visitare. Quel divieto non l'avevo mai capito. Mi sembrava un'assurdità. Quindi seguì volentieri Vittorione. Quella stanza segreta del condominio era posta negli scantinati della cappella centrale e vi si accedeva attraverso una piccola porta in metallo, poco lontana dal nostro altrettanto segreto pollaio. Le chiavi della porticina le aveva solo Remo, il quale era troppo preso dall'ennesima discussione con Andrea. Vittorione avevo preso intanto, oltre alle chiavi, anche una torcia elettrica. Ero pronto e fremevo all'idea di scoprire il segreto di quella stanza. Davanti a noi solo la porticina di metallo che Vittorione aprì subito. La prima cosa che vidi fu una serpe scivolare velocemente al lato della parete umida. Vittorione spostò la torcia e nella direzione della luce scorsi alcuni mucchietti d'ossa ben ordinate e suddivise per grandezza. Ancora due passi e si illuminò un muro, un vero e proprio muro intero costituito da teschi perfettamente allineati tra loro, i quali formavano una sorta di intreccio geometrico che nessuna trama di tessuto, per quanto perfetta fosse, poteva superare. Una visione tetra ed affascinante allo stesso momento. Vittorione si rivolse verso di me e con l'aria di chi avesse compiuto una prodezza e pieno di soddisfazione mi chiese: «Capisci ora?» Non feci in tempo a riflettere su quella domanda che sopraggiunse Remo, rosso in volto e sbraitante contro Vittorione. Il divieto che avevo infranto era una sorta di ingenua tutela della mia psiche, che al momento era molto più turbata dal racconto di Vittorione che dalla vista di quell'arabescante muro.